vissuto il lutto di mia mamma, la mia prospettiva, le mie priorità della vita sono cambiate. Tipo? Cioè sei il primo o dopo? Prima io sono partito che non ho mai avuto niente, sono stato da una parte fortunato, però dall'altra parte non ho avuto grandi opportunità, comunque non ho una famiglia stabile o altro. Mi sono dovuto sempre arrangiare e mi sono sempre sbattuto, no? Preso sempre le cose di petto e sono stato molto concreto nelle cose, nella costruzione delle cose ed ero molto anche materialista nelle cose, perché dicevo io devo lavorare, guadagnare per ottenere questi obiettivi, no? E mi sono reso conto anche che ho tralasciato anche altre cose che dicevo ma sì, tanto vedo i miei amici, li vedo sempre, la mia famiglia li vedo sempre. Da quando invece mia mamma è venuta a mancare, la cosa che mi ha dato più fastidio è stato che lei ha avuto una vita difficile. Sì. Ha avuto una mia giovane, ha iniziato a lavorare, ha dovuto venire con Italia, ricominciare la lingua, due figlie. Poi mi ha portato qua, non andava d'accordo con il suo ex marito, non era indipendente, era da sola. E quando poi ha trovato un suo equilibrio e ha avuto i figli, noi eravamo grandi e indipendenti, che lei poteva dire che se la voleva, ma la fa la sua vita, è arrivata la malattia. Cosa è potuto? Niente. E quindi ho detto, ma alla fine noi siamo qua a sbatterci di voler, di idealizzare qualcosa per una vita migliore senza renderci conto di quello che abbiamo intorno e del valore delle cose che abbiamo, pensando sempre al di più, dire se io ho quello, se io ho quello, se io ho una cosa bella, se io ho una macchina bella, se io ho i soldi, se vado in vacanza, qua. Però che non vivi veramente quello che hai. E ho capito, e penso di aver capito di più rispetto a prima il valore delle relazioni che alla fine sono quelle che contano. Quando alla fine noi dobbiamo fare il resoconto, non vedremo quante macchine avremo avuto, quante cose avremo avuto, ma chi ci aveva vicino, chi ci aveva intorno. E se quelli che sono intorno sono, che siano o 2, 3, o 10, o 20, ma il valore, capito? Il valore delle. No, perché mi stai tenendo avvicinata? Che valore ti dà una persona come Arlan? Vabbè, è un bel ragazzo, quindi un piacere misto sessuale un po' non c'è. Non è quello, non no. È quello. Sicuramente lui è un bravo ragazzo, sì, importante sì, è quello. Poi ognuno ha i propri difetti, c'ha le proprie esperienze, vicissitudini. Ognuno ha la propria vita e se tu vai a vedere ognuno non ha avuto delle vicissitudini facili in un contesto o in un altro. E quindi quando capisci veramente quella cosa non puoi dire io ho fatto le cose, questo è meglio, tu potevi fare. Perché ognuno dalla propria esperienza reagisce e affronta un modo diverso. Però se tu riesci a vedere oltre l'apparenza e sai che quella persona comunque in fondo è una brava persona e che comunque anche se sbaglia, anche se ci crede in quello che dice, allora quella persona ha valore rispetto a tanti che parlano. È il significato della mia mostra. Non ha, parlano perché. Anche te ha toccato il cuore, cazzo, hai sentito un brivido? Anche miseria. Purtroppo tanti parlano perché sanno che quello che dicono è quello che la gente si vuole sentire dire, ma non è quello che loro. È meglio dire le cose anche belle o brutte che siano in faccia alla gente, fine. Infatti. Essere veri. Io sono molto. Sì. Molto spudorato tante cose anche. Però me ne rendo conto. Tante persone si allontanano da me, ma perché sono serio. Sono sincero quando dico le cose. Ma se non si. Però meglio così. Io lo penso così. Io. Dove parlo con lui, abbiamo parlato comunque di diversi contesti, abbiamo affrontato comunque le situazioni. Io ti ho sempre detto quello che io pensavo, che tu eri contrario a me, ma di dire anche il contrario di quello che l'altra persona fa, non è dire che lui magari tu mi vuoi bene e dire quello che per te è giusto, però non vuol dire sempre che quello che io dico per me è giusto, che quindi se lo applico sulla mia persona è funzionale, su un'altra persona la stessa certo. cosa è funzionale, perché siamo tutti diversi. Cazzo, certo, cioè, è stupendo, io ti dico, registrata, ma è spettacolare sta parte che... Eh? È spettacolare, sì, ti sembra bravo. Questo lo taglio. Ho preso il libro. Questo non lo metterò. Ma che il fatto del lavoro, tu prima ti sbatti più forte, non c'hai mai un cazzo di tempo. Se tu l'extra ci sta sempre per un extra, perché comunque magari c'è uno spizio che ti vuoi togliere, ti fai quell'extra. Vi faccio un mio esempio perché posso parlare di me stesso. Sto mese c'ho un po' di spese, c'è il mio compleanno in ballo. Quando lo fai? Il 28? 28 novembre. Quindi ho iniziato, faccio quelle, tipo sabato sono andato a lavorare al bar, non so uscire con la tipa, 70 euro così, però vaffanculo. Vado a lavorare dal mio socio, inizio tutti i sabati, mattina dal mio socio a lavorare, settimana prossima. Cosa fai? Dal mio socio operaio, quello che c'è bisogno di fare in officina. Ah, ok. A barista faccio barman, comunque sono miei 100 150 euro a settimana in più, soldi mi servono per avere un giusto obiettivo. Il 27 sì. ho organizzato uno speed date.